in primo piano. Voglio partire ancora dalla Libia, ci sono tante notizie, ovviamente tanti racconti dal fronte. Beh, intanto la versione più edulcorata, insomma, di quello che sta succedendo è che non c'è un accordo ancora sul controllo di chi deve gestire le operazioni. La versione invece è un po' più dura, come scrive anche il Corriere a pagina 6, NATO non c'è l'intesa, è un nebbione fitto, una fumata nera. L'operazione più complessa degli ultimi anni, a chi spetta il comando delle operazioni militari contro la Libia? Alla NATO, dice Obama, dice la Gran Bretagna, dice l'Italia, ma Monsieur Sarkozy dice di no. La Francia vuole mantenere il controllo e dunque c'è questo scontro ancora che si profila tra non solo Italia e Francia, anche tra comunità internazionale e Francia. Per il secondo giorno consecutivo Libero, tra l'altro in prima pagina, mette documenti, armi francesi ai ribelli, le trame di Sarkozy, uno che Maurizio Belpietro definisce nel suo editoriale il mini Napoleone. Siamo nei guai per colpa sua. Tra l'altro il Corriere propone a pagina 5 un colloquio telefonico, non è una vera e propria intervista, con il presidente del Consiglio Berlusconi. Berlusconi, io, gli alleati e Gheddafi, l'Italia non è in guerra e non ci entrerà. Sempre questa distinzione francamente poco chiara, aggiungo io. In ogni caso, abbiamo ottenuto non solo il pieno coordinamento NATO di tutte le operazioni della missione, spiega al telefono Berlusconi, ma anche l'applicazione puntuale della risoluzione ONU. La coalizione è impegnata a difendere la popolazione civile, l'Italia non è entrata in guerra e non vuole entrarci. Quella della NATO è un'assunzione piena di responsabilità, sono tutti d'accordo, c'è solo qualche resistenza francese. Berlusconi racconta al Corriere che è ancora fiducioso di potercela fare, dice di Gheddafi, cioè Berlusconi dice così di Gheddafi, ancora fiducioso di potercela fare perché ha il controllo pieno della capitale. È un Berlusconi che comunque non ha avuto alcun contatto con lo stesso leader della Libia. E poi un'ultima appunto sull'opposizione: il centrodestra, quando era all'opposizione, si è comportato in modo diverso su temi cruciali per il paese, ma ora abbiamo l'opposizione che abbiamo, non mi aspettavo nulla di diverso. D'altra parte sono gli stessi che organizzano dovunque io vada squadre di contestatori che mi aspettano urlando mafioso, mafioso. Il mio governo i mafiosi li sta arrestando come mai in passato, ha inasprito le norme per il carcere duro, ha sequestrato miliardi di beni alle cosche. E il mafioso sarei io? Così conclude Silvio Berlusconi questo colloquio con il Corriere. Tra l'altro su Repubblica invece c'è un vero proprio giallo, si può dire, Goffredo De Marchis a pagina 17, riguardante la Libia. Oggi alle 10 Berlusconi non dovrebbe partecipare, anzi in questo colloquio il Corriere dice non c'è bisogno che io vada a parlare della Libia, il ministro degli esteri Frattini parlerà oggi alla Camera per me alle 10. In realtà sentite Repubblica, il discorso fantasma di Silvio. Che cosa ha fatto Repubblica? Lo dicono loro stessi, hanno rovistato praticamente, hanno raccattato delle carte trovate, lasciate a fine giornata dai parlamentari in Parlamento, e tra le carte abbandonate alla Camera sono comparse sei cartelle, sei fogli di un testo che inizia così. Cioè un testo come se fosse il testo di un discorso in cui parla il Presidente del Consiglio. E Repubblica si chiede, cos'è il discorso fantasma? Vuol dire che hanno per sbaglio, si sono persi il discorso che Berlusconi oggi, spiazzando tutti, pronuncerà invece alla Camera? Signor Presidente, onorevoli colleghi, come Presidente del Consiglio dei Ministri ho il dovere di rendere ragione delle scelte che il Governo ha compiuto a seguito della risoluzione dell'ONU. Inizia così questo discorso che Repubblica dice abbiamo trovato e riproduce anche in foto, abbandonato alla Camera. Un discorso fantasma di Berlusconi, nel quale Berlusconi o il fantasma di Berlusconi direbbe: mi sono personalmente attivato per far valere il mio personale rapporto con Gheddafi e spingerlo sulla strada della saggezza, non ci sono riuscito e questo mi dà dolore e amarezza. Un discorso in cui Berlusconi o il suo fantasma parlerebbe così della Francia: non accetteremo che alcuni facciano preda della Libia, certi atteggiamenti sembrano ispirati alla volontà di marcare il territorio in vista di futuri privilegi. Insomma, ci sarà, esiste questo discorso, è fantasma, lo pronuncerà Berlusconi, non lo pronuncia, chi ha abbandonato questi fogli nella Camera? Giallo alla Camera. Noi, come detto, ci occuperemo dei pacifisti che lentamente, con molto comodo, forse, sbarcheranno sabato a Roma nella prima manifestazione importante, ce ne sono state di minori. e Vittorio Agnoletto su Libero, che pena il PD, tifa guerra pur di dividere Lega e PDL. Gino Strada, intervistato dal Manifesto a pagina 3, fermiamo le bombe, ritroviamo la ragione, non ci sono guerre umanitarie. Il lavoro, ahimè, non manca, anche la bomba atomica su Hiroshima fu motivata da esigenze umanitarie. Vogliamo dire che la guerra non è mai necessaria o inevitabile? Parlare di guerra umanitaria prima che un imbroglio è un insulto all'intelligenza. Così Gino Strada, mentre c'è il solito pacato Dario Fo, che tra l'altro oggi compie 85 anni, fa un'intervista di due pagine all'Unità, e il premio Nobel per la letteratura dice: io sto con l'ONU. Attenzione, beh, insomma, sto con le bombe, insomma, Dario Fo. Se non c'era la Francia che partiva in quarta, c'era una strage e staremmo qui a piangere sulle nostre responsabilità. Io sto con l'ONU, meglio fermi e sottoterra. Certo, bisognava intervenire prima, dare forza e valore alle parole. Così Dario Fo, Ora ci vorrebbe un controllo meticoloso delle operazioni, una lucidità che tuttavia la guerra o il potere nega sempre. Poi penso a Berlusconi, ai suoi amici. È un collezionista di figli di puttana. Appena ne vede uno, gli corre incontro e gli bacerebbe anche i piedi, non solo l'anello. È fatto così. Dario Fo, sull'Unità, intervistato da Tony Iop. Questo per quel che riguarda la Libia. Poi ne parleremo alle 8.30 di guerra, di pacifismo. Votate il sondaggio, intanto voglio andare alle cose politiche. Beh, le cose politiche, c'è stato intanto il rimpasto di governo ieri con la nomina a Saverio Romano ministro delle politiche agricole. Dunque Galan dalle politiche agricole passa alla cultura, da dove Bondi si è dimesso, si sono concretizzate le dimissioni di Bondi annunciate da un 2 o 3 mesi. Però c'è questo importante momento politico. Romano ministro, il gelo del Colle, così titola a pagina 19 il Sole 24 Ore. Perché? Perché il Quirinale aveva già mostrato qualche perplessità su Saverio Romano, che è indagato, rimane per il momento indagato per reati gravi, associazione, insomma, legati alla mafia. In realtà la procura ha chiesto la sua archiviazione, ma il GIP non si è ancora pronunciato sull'archiviazione, quindi in questo momento rimane ancora indagato. Il premier conosceva le nostre perplessità, quindi mentre Napolitano stringeva la mano al neo ministro Romano, poco dopo, contemporaneamente, una nota del Quirinale stesso poneva questi dubbi, questa accettazione con riserva, una vicenda che non è mai avvenuta, cioè un ministro accettato con riserva. Governo via rimpasto, Romano va all'agricoltura, ma il premier dice persona cristallina, il ministro che mancava al sud, ma certo le perplessità del Quirinale. Tra l'altro le accuse contro di lui quali sono? Ne parla Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, ne parla Repubblica, ne parla la stampa. Beh, l'accusa più forte è quella del pentito di mafia Francesco Campanella, raccontato che un giorno nel 2001 a Roma pranzò col candidato alle elezioni politiche Saverio Romano. Intorno al tavolo c'era pure Totò Cuffaro, c'erano altre persone, una delle quali disse a Romano che Campanella non l'avrebbe votato. Stava scherzando, ma il candidato, cioè Saverio Romano, non la prese a ridere. Si alzò e disse seriamente, rivolgendosi a me: tu mi devi votare perché nualtri semo la stessa famiglia. Mi scuso per il siciliano. Siamo della stessa famiglia. Vai a Villabate e ti informi. E disse queste cose, dice il pentito di mafia, lasciando attoniti tutti i commensali, cioè facendo riferimento a una famiglia, e da qui le accuse di dire a che cosa si riferiva, insomma un'accusa di contiguità con Cosa Nostra. In realtà Saverio Romano parla a pagina 2 della stampa qualche battuta per dire una grande delusione, lo sfogo è il peccato originario di noi siciliani, mi dispiace, io Napolitano l'ho pure votato. Ce lo portiamo sempre dietro come una maledizione, il peccato originario di essere siciliani. Il Quirinale, dice Romano, se si legge bene il comunicato, parla di imputazioni. Le imputazioni non sono astratte, io sono solo indagato. Comunque pazienza, ci sarà modo e occasione per chiarire col Presidente della Repubblica, che io rispetto molto. Per me la vicenda è chiusa, voglio occuparmi di politica. E poi su questo racconto di Amedeo La Mattina rimane comunque il peccato originario. Se sei nato in Sicilia, allora di riffa o di raffa un po' mafioso devi essere per forza. E se poi fai politica è la fine. Questo sarebbe il peccato originario per Romano. Per fortuna Berlusconi è un garantista, io non sono indagato, non ho un processo e nemmeno una piccola condanna. Sta di fatto, insomma, che c'è questi dubbi del Colle, le riserve di Napolitano, che ha scelto questo che anche Marzio Breda sul Corriere definisce l'atto più forte concesso dalla carta e dalla prassi. Anche per Repubblica sia la nomina, pagina 3, poi la stoccata, gelo tra Napolitano e il Premier sui guai del neo ministro. Altri guai invece, c'è un attacco continuo e riprende la vicenda Ruby sui giornali. L'Unità pubblica alcune nuove foto scattate ad Arcole, innocenti, nel senso ci sono delle foto di una camera da letto con un letto sfatto, probabilmente riprese dentro Arcore, ma dice l'Unità c'è anche un grave atto d'accusa in queste foto allegate alla sentenza. Tra gli atti depositati ci sono anche delle foto di autoerotismo di Barbara Guerra, che sarà molto contenta di saperlo attraverso l'Unità. Il traffico. In primo piano. L'Unità mette un paio di foto, mentre il Fatto Quotidiano fa pagina 2, 3, 4, il titolo di apertura, pubblicando e dicendo tra l'altro e alcune di queste conversazioni sono impubblicabili, talmente crudo il racconto e il linguaggio sessuale esplicito. Pubblica che cosa? Le chat tra le ragazze che hanno partecipato ad Arcore. Il titolo d'apertura di prima pagina è "Lo chiamavano al caprone". Così sarebbe uno dei modi con cui le ragazze hanno definito, parlando tra di loro, Berlusconi. Chat tra Daniele e Iris. Lui chiede se la sera lavora. Lei risponde che probabilmente no, perché il capo è a Roma. E lui svela il nomignolo di Berlusconi. Ah, al caprone. O poi il titolo a pagina 2, Ruby, Berlusconi mi disse ti cambio il nome. Insomma, se volete esercitarvi, c'è anche una foto di un altro bacio saffico, lingua contro lingua di due belle ragazze a pagina 3, a tutta pagina, se volete lo trovate sul Fatto Quotidiano. Allora, la vicenda dei tagli alla cultura pare rientrata, però anche qui, insomma, i giornali la pongono in modo un po' dubbioso. Tassa sulla benzina per i fondi alla cultura. Cioè Galan è il nuovo ministro, Bondi invece se ne va, tra l'altro fa un'intervista al Corriere della Sera, pagina 19, dicendo resterò al fianco di Silvio, sono finalmente sereno, non ho alcun rammarico. Certo però, dice, la mia colpa con Tremonti è stata quella di non avere solo chiesto maggiori fondi, ma di avere impostato delle riforme liberali. Questa mia posizione non è stata evidentemente compresa dal ministro Tremonti, che ha concesso un'attenzione al sindaco di Roma e al maestro Muti ben superiore a quella che ha concesso a me come ministro. Credo inoltre che gli sia stato molto più sensibile agli editoriali del Corriere della Sera, che lo invitavano a comprendere le ragioni della cultura, piuttosto che alle mie preoccupazioni e alle mie proposte. Un Bondi depressissimo, insomma, che abbandona questo posto. C'è anche, lo accompagna uno sperticato elogio di Giuliano Ferrara sul Foglio, elogio di un politico diverso, Bondi, prima vittima conosciuta della sindrome da lotta politica, e definisce Bondi, che ammiro contraddittoriamente, dice Ferrara, come una persona che si è schiantato al suolo il Bondi politico da un'altezza inimmaginabile. Ora nascerà un altro Bondi, con un altro rapporto con le idee e la politica, lontano dalla cucina che per lui è troppo calda. Insomma, un Bondi definito anche sulla stampa uno che somatizza tutto. Insomma, viene definito come un politico che era caduto proprio in una spirale di depressione, perché non era riuscito ad accettare a far accettare quei reintegri alla cultura che ora ci sono. Ma come? Beh, come la pongono i giornali? Ci tassano la benzina per pagare i filmetti, così la mette Libero. Ma il concetto è quello, la benzina reintegra i tagli della cultura. Anche sul Sole 24 Ore. Molto bene che siano stati trovati 80 milioni per la tutela del patrimonio dopo i tagli denunciati da Carandini. Un'ottima notizia di reintegro di 149 milioni del fondo per lo spettacolo. Quello che non va bene è che a finanziare questo riscatto culturale del paese sia un aumento delle accise sulla benzina. scrive il Sole 24 Ore, e anche il giornale la mette così: la benzina sarà più cara per pagare Moretti. Vabbè, Moretti and Company, cioè il regista Moretti. Sta di fatto che, insomma, il dato di fatto è quello: è stata pagata, cioè è stata alzata l'accisa sulla benzina, come avete sentito anche Gianni Letta nel giornale radio, cioè gli italiani saranno disponibili a fare questo sacrificio per la cultura. Non si capisce bene perché, come scrive Gramellini nel suo Buongiorno sulla Stampa in prima pagina, la politica mette le mani nelle tasche degli italiani ma si guarda bene dallo svuotare le proprie. Cioè non si capisce perché i sacrifici per sostenere giustamente una campagna che sta facendo anche Radio 24 reintegro dei fondi della cultura debba essere ottenuta attraverso sacrifici chiesti comunque agli italiani. Come detto, oggi è il primo numero firmato da Roberto Napoletano sul Sole 24 Ore. È un ritorno quello di Napoletano, che è già stato per lungo tempo al Sole 24 Ore, e infatti inizia così: non c'è nulla di più nuovo che tornare all'antico nel suo editoriale. Un editoriale che si conclude invece raccontando con un PS, un avviso alla politica, su governo dell'economia, decoro delle istituzioni: non faremo sconti a nessuno, sono in gioco i beni supremi del paese, non sono ammesse esitazioni e ambiguità. L'orgoglio di un'identità, questo è il titolo editoriale di prima pagina di Roberto Napoletano, il suo saluto ai lettori. Il Sole oggi apre col decreto contro le scalate dopo la vicenda Parmalat Lactalis, che sarà trattata da Oscar Giannino alle 9, e dunque la cito solo così per rimandarvi alle 9. Interessante anche, sempre riguardante Berlusconi, c'è su Libero: papà spende troppo, i 5 figli sono più ricchi di Silvio. Fosca Binker, alias Franco Bechis, va a sfrucugliare il portafogli di Silvio Berlusconi. I figli di Silvio sono più ricchi di lui, tutti i dati ufficiali. Silvio, tra dividendi appena incassati, riserve distribuibili, ha un conto a disposizione in totale di 684 milioni di euro. I 5 figli insieme 746 milioni di euro, 62 milioni di euro più di papà. Papà che spende, spande, scrive Libero, e così il patrimonio viene eroso sempre più, mentre la formichina sono i figli, Pier Silvio e la formichina. Oppure i 3 figli avuti da Veronica Lario hanno risparmiato 390 milioni di euro, ne conservano 138 milioni sul conto corrente. Un bel conto corrente da 138 milioni di euro. Vabbè, voglio concludere con che cosa? Trovate tantissimo, anche tante pagine di descrizione di Elizabeth Taylor, Liz Taylor, che è morta, si è spenta, 79 anni. Ricordata per 2 Oscar, ma anche per i tanti amori, per la vita esagerata, tanto che sul Fatto Quotidiano, le cattiverie che ci sono sempre in prima pagina, è morta Liz Taylor, verrà sepolta accanto al marito, al marito, al marito, al marito, al marito, al marito, al marito. Votate il sondaggio sul pacifismo, ci fermiamo per il giornale radio. 24 mattino, l'intervista. Alle 8 e 22 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Io voglio salutare un deputato siciliano, perché si chiamano così gli onorevoli del Parlamento siciliano, consigliere regionale si potrebbe dire, del Movimento per l'Autonomia, Giuseppe Gennuso, della Regione Sicilia. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ma lei che ha minacciato? Vuole fare... vuole raccimolare 1000 persone, fare una spedizione dei 1000... Moderna, dove vuole andare con questi 1000? Ma nella situazione in cui si trova la nostra regione è pressata da una parte gli immigrati che vengono dalla Tunisia e dal Marocco, dall'altra parte la tensione di guerra che c'è da un momento all'altro, non sappiamo cosa succede in Sicilia, siamo stretti in una morsa di cui abbiamo dei rischi non indifferenti, soprattutto quello che sta vivendo l'isola di Lampedusa. che non è una cosa normale, un governo nazionale che se ne frega, non attenziona queste problematiche siciliane assolutamente. Ma Giannuso, sono arrivati, è arrivata la nave della Marina Militare, se ci sono le regioni che sono pronte ad accogliere. Ma pensa che queste cose possono risolvere il problema? Io ho grossi dubbi, i problemi si risolvono a monte, non si possono risolvere così, danneggiando la popolazione di Lampedusa, danneggiando lo spauracchio che abbiamo in Sicilia. Occorre subito che lo Stato nazionale, cioè che dovrebbero fare? Berlusconi, Bossi e Tremonti, e che venga istituita l'unità di crisi in Sicilia, perché di questo si deve trattare. Ah, un'unità di crisi, cioè un'unità. Ma che vuol dire cioè i mille? Se no, se non c'è questa unità di crisi, le ha detto Raccimolo, mille. Noi potremmo fare la spedizione dei mille per fare una manifestazione a Roma e fare sentire la nostra voce. Sicuramente nei prossimi giorni, se non ci saranno delle compensazioni o dei riscontri fattivi, noi possiamo pensare che un po' di deputati della regione Sicilia andiamo ad incatenarci davanti a Palazzo Grazioli o a Montecitorio. A incatenarvi, incatenarvi. Sì, ci incateniamo perché dobbiamo fare valere la nostra protesta. Qui in Italia comanda solo Bossi e Tremonti, loro decidono tutto per tutti. Anche penso che l'onorevole Berlusconi sia vittima di questi signorotti, perché qui non si fa altro a sentire discriminazioni del meridione d'Italia, perché i fondi FAS se li spendono solo al nord, tutti i fondi riservati, guarda caso il CIPE che va a stanziare 22 miliardi e 20 milioni vanno solo al nord e 2 milioni e 2 miliardi vanno nel un po' così. Insomma, lei dice sono Bossi e Tremonti che tengono in mano politicamente Berlusconi. Sì, siamo in mano di questi signori, non se ne può più, deve insorgere il popolo. Il partito del meridione, noi dobbiamo fare il partito del meridione per compensare e contestare questi signori. Capito, ma mi scusi, non ci sarà mai pace. Giannuso, ma che dovrebbero fare? Cioè, voglio dire, è stato istituito al Ministero dell'Economia anche un sottosegretario, studierà tutte le compensazioni per Lampedusa. Hanno inviato la nave, stanno trasportando, cioè è una situazione emergenza, perché la gente fugge, arriva a Lampedusa. Ma Berlusconi è bravo a dire, ma non a fare. Bisogna fare, ci vogliono i fatti, occorrono i fatti. Non ci sono le compensazioni mai, i riscontri non arrivano mai, questa è la verità. Mancano i riscontri, mancano le esigenze che vengono affrontate, che vengono determinate, che vengono risolte, queste cose mancano sempre. Non è possibile, se queste cose che stanno succedendo a Lampedusa, se fossero successe al nord Italia, a quest'ora avrebbero già risolto. Non mettono una lira per risolvere il problema, non ci hanno adeguatezze per poter... È una questione proprio al nord, l'avrebbero già risolta. Sicuramente sì, bisogna che lo Stato faccia immediatamente, istituisca l'unità di crisi. Questa è la prima l'unità cosa di crisi, fare. Questa è la cosa che lei chiede. Senta, lei ha detto che forse organizzerete qualcosa, vi incatenerete a Palazzo Grazioli, in Parlamento. Beh, non è la prima volta che lei si incatena, sono nel 2007 lei si incatenò al Parlamento siciliano per risolvere un problema di un'autostrada. Per fare aprire un tratto dell'autostrada Siracusa-Gela. Siracusa Rosolini, sì, quell'autostrada era aperta, era pronta da 2 anni, non si apriva mai, poi con le mie proteste all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, con questa protesta poi abbiamo risolto il problema. Senta, lei è del Movimento per le Autonomie, perché non se la prende col suo presidente Lombardo della Regione Sicilia? No, la Sicilia è vittima dal governo centrale, non c'entra Lombardo ancora aspetta i fondi fatti da questi signorotti del nord, non esiste completamente, Lombardo sta facendo il suo dovere di grande amministratore, di grande governatore della Sicilia, non è così. Sappi che Lombardo sta togliendo tutte le speculazioni, tutti gli sprechi che nella regione Sicilia c'erano. Lombardo ha ereditato una situazione molto grave, Lombardo sta sistemando i conti della Sicilia, il bilancio della Sicilia, non è così come si dice. Lombardo sta facendo tutto per poter mettere in sesto questa regione, perché non aveva trovato, ha ereditato uno scatafascio completo, tanto è vero che l'ultimo bilancio di 2 anni fa l'abbiamo dovuto fare con la dispersione di immobili della regione Sicilia per pareggiare. Quindi insomma Lombardo non c'entra niente, la situazione sono questi Lombardo, signori del nord. Non c'entra niente, Lombardo fa la sua parte, oggi sicuramente Lombardo andrà a protestare a Lampedusa direttamente con situazioni eclatanti e vediamo quello che succederà. Che farà? Non sappiamo, vediamo quello che succederà. lui è uno farà che parla poco e fa molto, non sappiamo cosa farà oggi. Va bene, intanto la ringrazio Giuseppe Gennuso, vedremo, se spero non ci sia bisogno di incatenarvi, però insomma vedremo, lei dice siamo pronti anche a questo. La ringrazio intanto, buona giornata. Deputato siciliano, cioè consigliere regionale della regione Sicilia del Movimento per l'Autonomia, Giuseppe Gennuso, che è stato con noi. Allora, dopo il traffico, sì, il traffico, ogni tanto do il traffico qua e là, dopo il meteo e la pubblicità parleremo del nostro sondaggio di questi pacifisti. Dove sono? Io a Milano, nel palazzo, dove è un condominio abbastanza ampio, ho visto forse una bandiera della pace l'altro ieri, un po' timidamente spuntare da un balcone. Dove sono finiti i pacifisti? Dove sono finite le bandiere della pace? Oggi sui giornali cominciano qualche intervista a Gino Strada, a Vittorio Agnoletto, a Dario Fo, perché sabato c'è una prima manifestazione un pochino imponente, ce ne sono state alcune ma un po' piccole. Dove sono i pacifisti? Perché i pacifisti non manifestano contro la guerra, perché è guerra in Libia? Questo vi chiediamo. Vi stupisce che non ci siano ancora state manifestazioni pacifiste? È il nostro sondaggio. Se volete, su radio24.it votare, oppure 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. Allora, che fine hanno fatto i pacifisti? Questo ci chiediamo nel nostro sondaggio. Dove sono? Perché non ci sono tante bandiere della pace? Le bandiere arcobaleno che si vedevano ai tempi della guerra in Iraq o in Afghanistan? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Vi stupisce che non ci siano state ancora manifestazioni pacifiste, imponenti, importanti? Questo è il tema del nostro sondaggio. Devo dire che il 56% risponde di no per il momento. Comunque vi state dividendo, 44 a 56. I pacifisti timidamente oggi dai giornali anche cominciano a comparire. Sabato c'è una manifestazione, quella più importante a Roma. Vittorio Agnoletto, intervistato da Libero, dice: ce l'ha col PD, che pena il PD, ti fa guerra, pur di dividere Lega e PDL, così ha buttato i valori della sinistra. In genere la sinistra si batte contro la destra per chiedere la pace, non la guerra. Alex Zanotelli sull'unità, brutta storia la guerra, ma bisogna capire. E poi c'è Gino Strada sul manifesto, basta le bombe, cosa vuol dire l'intervento umanitario, è una vicenda vergognosa, è un imbroglio, un insulto all'intelligenza. Poi c'è Dario Fo che oggi compie 85 anni, è uno che ama sempre stupire. E Dario Fo, oggi 85enne, intervistato dall'Unità, dice: io sto con l'ONU. Se non c'era la Francia che partiva in quarta, c'era una strage. Si potrebbe dire Dario Fo dunque sta con i tornado che decollano. Poi vabbè, dice una sua frase su Berlusconi, poi la vedremo, ma intanto voglio salutare gli ospiti. L'onorevole Fiamma Nierenstein del Popolo della Libertà e vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, buongiorno. Così come saluto l'onorevole Vincenzo Vita del Partito Democratico. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Senatore, anzi, per la verità. Sì. Senta, onorevole Nierenstein del Popolo della Libertà, non so se l'ho detto ma lo ribadisco, dove sono finiti allora questi pacifisti? La stupisce che si siano un po' per il momento timidamente rintanati, ma ora usciranno, insomma adesso pare che le prime manifestazioni ci saranno. Beh, il motivo per cui non si vedono in giro è che, diciamo così, la loro è una battaglia di valori, no? Diciamo così, che è legata alla non violenza, delle origini nobili, gandhiane, insomma, e poi degli sviluppi che io non ho mai apprezzato, e questo non è un mistero, insomma, lo scrivo continuamente, quindi è che però insomma ha questa caratteristica, e questa è invece una guerra di valori, appunto, una guerra in difesa della libertà, dei popoli in movimento, della guerra contro dei dittatori e soprattutto contro un dittatore che a questo punto, se questa guerra non ci fosse stata, avrebbe già fatto delle stragi spaventevoli. La sua minaccia giorno avanti che si sono mossi a quello in cui si sono mossi i tornado e gli F-15 eccetera, erano minacce spaventose: vi caccerò, vi troverò di casa in casa, non si salveranno né donne né bambini, insomma. Quindi è evidente che per i pacifisti è più difficile intervenire, vede, lo dico con tenerezza, ecco. Sì, però voglio dire, ma lei crede a questa idea? Perché insomma ci sono anche molti dubbi all'interno anche dello schieramento di centrodestra, tanto che qualcuno paradossalmente ha detto i più dubbiosi sono, non so, immagino Vittorio Feltri, Giuliano Ferrara, Marcello Veneziani, si sono espressi contro questo intervento, a dire ma che intervento umanitario, cioè non sappiamo in fondo chi andiamo ad aiutare, chi sono questi ribelli, l'unica cosa questo è verissimo. verissima la cosa che lei dice, non sappiamo chi andiamo ad aiutare, anzi da quello che si vede, da ciò che accade per esempio adesso in Egitto, dove il voto sulla Costituzione ci ha fatto vedere che è possibile, anzi probabile, che i Fratelli Musulmani vincano le prossime elezioni, ci dice che noi diciamo così sosteniamo della gente la cui lotta per la libertà identifica la libertà in valori che non hanno nulla a che fare con noi, però a me di questo non me ne importa niente, a me la cosa che mi importa è che noi siamo l'Occidente di fronte a un dittatore che uccide il suo popolo e lo fa a pezzi non deve avere nessun dubbio. Io ho sempre sostenuto questa posizione anche in tempi in cui è stata molto impopolare, che però ce ne sono tanti, allora si dice allora andiamo in Bahrain, andiamo in Yemen, andiamo, però insomma non è che allora noi ci possiamo imbarcare in una guerra collettiva, tuttavia dobbiamo tenere gli occhi aperti su tutti quanti. Vede, io sono una di quelle persone pochissime che si sono astenute sul voto sul trattato con Gheddafi, sì. E ho votato anche contro il trattato con la Siria, perché io nella mia posizione di vicepresidente della Commissione Esteri senta molto la responsabilità di queste posizioni, sì. non lo faccio certo a cuor leggero né per una cosa, no, però ci sono poi anche i convincimenti personali. Io senatore Vita vorrei sentire Partito Democratico, allora senatore, lei sabato intanto andrà a manifestare, mi risulta così, cioè lei sì, certo. Voglio ricordare però che la manifestazione di sabato ha un centro che è l'acqua pubblica. Sì, quello è vero. Nel frattempo si è caricata di altri. Sì, quello è vero. Cioè, si sono pure accodati. No, ecco, però è bene sempre sapere di che cosa stiamo parlando. No, questo è vero. Sabato è una grande manifestazione con adesioni numerosissime, partita sul referendum acqua pubblica. Poi naturalmente gli eventi di questi giorni è chiaro. Giustamente caricati, io sarò lì anche per la pace. Naturalmente io c'è imbarazzo, lei è imbarazzato per questa posizione del PD, perché insomma il PD io ho delle opinioni espresse anche pubblicamente, diciamo per usare una gergalità, pacifiste, intendiamoci, io credo che sì, comunque ho anche espresso dissensi rispetto al PD. Detto questo, però, alla domanda che lei faceva all'inizio, sì, come mai il movimento pacifista, cioè quella domanda che certo, ha fatto, certo, perché? Ecco, ma guardi, c'è sempre da indagare un po' quando una cosa accade. Io credo che non ci sia una risposta ovvia, è bene interrogarsi seriamente. Molto probabilmente, azzardo, io che sono sinceramente, poi ognuno di noi ha tanti difetti, ma insomma mi sento da quella parte, ho manifestato per la pace tante volte, diciamo numerosissime nella mia vita, sento che quel tipo di impostazione oggi va rivista, perché insomma il mondo nel frattempo è cambiato vorticosamente e l'incertezza che c'è stata per tanti giorni, è bene dircele queste cose e dirle anche dai microfoni della radio 24, sulla questione della Libia, è perché qui si è di fronte a una contraddizione evidente, che è figlia anche di una stagione nuova del mondo. C'è un dittatore, un signore che reprime in maniera virulenta, per cui non si può stare così, solo ad osservare. Ecco. E dall'altra è evidente, non c'è bisogno che lo dica io, l'hanno scritto insigni signori che si occupano di queste cose, di strategie e quant'altro, è evidente che questa cosa è iniziata con l'idea di un intervento, diciamo no fly zone, ma tutte le esperienze hanno dimostrato che poi dal no fly zone si passa a una forma di guerra. Quindi sì. C'è sì la coperta dell'ONU, ma la coperta dell'ONU in questo mondo terribile è molto stretta. Senta, ma invece, senatore Vita, c'è anche da riflettere sul fatto, perché qualcuno dice le bombe di Bush erano cattive, mentre le bombe del presidente Nobel per la pace. Obama. No, guardi, su questo il pacifismo ci insegna, le bombe, le morti, sono i feriti, sono sempre cattivi. Ah beh, certo, no, questo è il principio del pacifismo. Infatti è il principio del pacifismo. No, ma il motivo per cui molti insomma sono un po' disorientati, voglio dire, quando era andare contro anche una politica americana, criticata anche da me in prima persona, anche spesso in passato, di Bush, e invece adesso c'è Obama e quindi insomma è l'icona, no, del politically correct. Questo conta, intendiamoci. Appunto. Io ripeto che sarò a manifestare per la pace e che ho trovato, lo dico sinceramente, in questo anche dissentendo da alcune opinioni prevalenti anche del mio partito, ma credo che sia un problema che un po' tocchi tutti. mi ha molto colpito la modalità con cui è avvenuta questa vicenda in Libia, perché insomma l'Italia è passata da un trattato di amicizia con la Libia, che suscitò anche in me grandi perplessità, mi pento di non averle espresse più fortemente, anzi, mi dolgo con me stesso di non averlo fatto più duramente, tuttavia quel trattato fu accompagnato persino da messi in scena, adesso non voglio fare facile propaganda, mi sono facciamani e poi si è passati alla partenza dei Tornado in diretta al TG1, con il TG1 che sembrava quasi un bollettino, ecco, questo francamente è troppo. Qui sì, forse la Francia, che come lo definisce oggi Libero, il piccolo Napoleone Sarkozy, ci ha messo qualcosa di suo. Però ma io Sarkozy vorrei... sta preparandosi la campagna elettorale, avere consenso. Vabbè, io voglio sentire Luca da Treviso, buongiorno, l'800 24 00 24, ci ha chiamato Luca, buongiorno, che ne pensi? Buongiorno a voi, volevo dare un piccolo mio contributo. Dica. A una conversazione così interessante, no? Ma siccome ci sono due motivi per cui non abbiamo ancora visto i pacifisti in massa in maniera organizzata: primo, perché per organizzare manifestazioni bisogna avere un supporto forte, solitamente viene dato da qualche partito di centro che in questo momento è un po' allineato con il governo, quindi non c'è motivo per organizzare immediatamente in maniera forte così queste manifestazioni, che comunque ci saranno, magari in maniera un po' più spontanea forse, probabilmente. E il secondo, perché storicamente queste manifestazioni sono anche organizzate quando c'è un intervento statunitense, questo ci racconta un po' la storia. Quindi a mio avviso essere questi due motivi abbastanza. Voglio dire, anche qui gli americani sono coinvolti, voglio dire, non è che in Iraq sono andati solo gli americani, c'eravamo un po' tutti quelli che hanno partecipato a questa coalizione, no Luca? Però lei dice qua non vede un ruolo predominante dell'America. Sì, senz'altro, perché molte volte l'America ha avuto un ruolo dominante e trascinatore, no? Assolutamente. Questo secondo me, non voglio fare un giudizio politico sull'intervento, perché le motivazioni... Sì, però lei dice un pochino è questo, cioè un ruolo non centrale dell'America che un po' annacqua anche lo spirito dei pacifisti di andare in piazza. Da qui voglio ripartire da Fiamma Nera Stand, dopo il traffico leggerò a Fiamma Nera Stand la posizione di Dario Fo su Berlusconi e la guerra. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, stupiti che non ci siano i pacifisti che manifestano per il momento. Prima di dare fuori dell'onorevole Nirenstein, vorrei sentire anche Emilio da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Io non mi meraviglio affatto che i pacifisti non protestino adesso, perché se dovessero protestare anche contro l'applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Vabbè, il suo audio va e viene, Emilio, cioè dice c'è una risoluzione dell'ONU, ma che c'entra? Il pacifista è contro le bombe, non è che se sono legittimate da una risoluzione dell'ONU le bombe vanno bene. Il pacifista per sua definizione è per la pace, sempre comunque per la via diplomatica. No, Emilio, è ancora con noi o il cellulare fa le bizze? No, non c'è. Allora vorrei andare dall'onorevole Nirenstein, senta cosa dice Dario Fo di... Allora, intanto ha detto sono con l'ONU e la Francia, se non interveniva che facciamo, meglio fermi e sottoterra? No, io sto con l'ONU. Poi penso a Berlusconi, ai suoi amici, è un collezionista di figli di puttana, appena ne vede uno gli corre incontro e gli bacerebbe anche i piedi, non solo l'anello. È fatto così. Questa è la posizione di Dario Fo, non so se la vuole commentare o se no. Io guardi, sinceramente lei mi propone, come posso dire, una deiezione di cui non me ne importa niente. No, però c'è una questione. Proprio perché dovrei essere è una delle tante, peraltro, di Dario Fo. Torniamo invece alle cose interessanti che diceva. No, però è un modo. Se vuole che le parli dei figli di puttana, ce ne sono tanti in giro. No, la cosa certo non mi fa paura, ma certamente, insomma. No, però guardi, onorevole Nirenstein, io le voglio dire questo: il giorno in cui alla Camera Fini non ricevette Gheddafi alla fine, perché era in ritardo eccessivo, che se ne andò, D'Alema prese e andò alla tenda che lui aveva piantato in mezzo a uno dei parchi romani più belli e più storici per chiedergli per favore di non arrabbiarsi, per carità, insomma, e non vedo perché questa cerchia di figli di puttana, se lui così vuole definire quelli che hanno avuto a che fare con Gheddafi, si dovrebbe limitare a Berlusconi, per Bacco, insomma, non solo tutto il mondo. Sarkozy gli fece un'accoglienza a Parigi assolutamente migliore. vero, e adesso, e adesso è lì. Adesso è il suo peggior nemico. Ma a proposito, quindi, non ne vuole dire stare. Asteniamoci da queste sciocchezze, sono delle pure sciocchezze. A questo proposito, non ne vuole dire stare la Francia, perché molti dicono, parliamoci chiaro, intervento umanitario, siamo lì per il petrolio, siamo lì perché la Francia potrebbe avere delle posizioni di rendita petrolifere un domani positive, che adesso non ha. Di rappresentare, come posso dire, un punto di riferimento ideologico nel mondo, e le sbaglia quasi tutte, soprattutto per quello che riguarda il Medio Oriente. L'Unione Mediterranea, che era una creatura di Sarkozy, ha visto lei come è andata, insomma un disastro. I rapporti di Sarkozy col mondo arabo sono tali per cui il suo ministro degli esteri si è dovuto dimettere, perché era ospite di Ben Ali proprio nel giorno in cui Ben Ali è stato cacciato via. Io non sono affatto preoccupata della presenza francese da quelle parti, non sono preoccupata quasi di nulla, delle cose, delle conseguenze per così dire tecniche. Sono preoccupata della cosa di cui sono preoccupati tutti, cioè di chi verrà dopo, di come saranno le cose. Ma vede, questo dopo e questi oppositori, se ci sono anche quelli integralisti islamici, erano lì comunque, non è che li abbiamo creati noi, quindi è una sciocchezza il pensare che la nostra presenza come forze come forze occidentali, europee, americane abbia creato una situazione in cui poi possano venire rafforzate queste forze. Lo vede in Egitto, per esempio, nessuno ha mosso un dito, i fratelli musulmani stanno tutti quanti venendo a galla, abbiamo è colpa nostra, abbiamo fatto la guerra, non c'entra nulla, quello è un problema. Guardi, e qui le dico una cosa che secondo me è veramente basilare: il fatto che noi ci presentiamo mostrando la faccia e anche mostrando i nostri tornado è senz'altro positivo, anche se nel futuro dovessimo vedere delle forze integraliste islamiche venire al potere, perché l'unico elemento che conta in questo mondo, glielo dice una che sono 20 anni che si occupa di cose arabe, l'unico elemento autentico è l'onore, il rispetto, il considerare l'interlocutore come qualcuno che vale la pena di averci a che fare, non come un vigliacco che si tira indietro e che pensa solo ai suoi affari o ai suoi interessi, eccetera. Quindi noi in ogni caso, anche per il futuro, chiunque sia chi viene fuori e che sarebbe venuto fuori in ogni caso, facciamo bene a presentarci così, mostriamo la faccia, e questa è una cosa. Allora io voglio sentire Paolo da Pisa. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Sì, volevo intervenire su due aspetti essenzialmente. Il primo è che i pacifisti non devono essere visti come un organismo monolitico dove sono tutti comunque contrari alla guerra. Io sono sempre stato contrario a tutti gli interventi che ci sono stati. Non saranno monolitici, non saranno monolitici nelle formazioni culturali, eccetera, ma che siano tutti contro la guerra, il pacifista, voglio dire, se l'etimologia ha ancora un senso, no? Io le faccio un esempio: io non ho fatto il militare, ho fatto l'obiettore di coscienza, perché io non voglio delegare a nessuno la scelta che io possa uccidere qualcun altro. Però questo non toglie che io possa decidere che degli interventi, come in questo caso, che sono tutto meno che umanitari, perché su questo non sono d'accordo con la dottoressa Niederstein, questo è tutto meno che un intervento umanitario, questo però è un intervento di geopolitica. E si può fare, secondo lei? Secondo lei si può fare in questo caso? È giustificato. Dal momento che Gheddafi è passato da essere un amico nostro, e noi lo abbiamo disconosciuto perché tutto l'Occidente l'ha disconosciuto, da quel momento in poi noi non possiamo più fare in modo che lui resti lì, altrimenti dopo ci troviamo un problema enorme. Quindi l'intervento non è umanitario, è per rimuovere Gheddafi, e deve essere così. Ma oddio, per la verità non è tanto per rimuovere Gheddafi, è per proteggere la popolazione civile, questo stando alla risoluzione dell'ONU, e per imporre una no-fly zone. Non è che per rimuovere Gheddafi, magari anche fisicamente, questo non c'è scritto nella risoluzione. Voglio concludere con Marco da Prato, perché poi abbiamo finito. Marco, dica. Sì, buongiorno. Oggi con i telefoni siamo fortunati, Marco, sì. Mi sente? Insomma. Io sono stato spinto a intervenire dal fatto che i pacifisti risultano sempre un popolo così un po' ingenuo che poi non fa esattamente quello che vuole. Secondo me ora non siamo in piazza perché sostanzialmente dietro questa guerra c'è stata una truffa. La truffa è che doveva essere una no-fly zone. La truffa. Guardi che però la no-fly zone si impone, ce l'ha spiegato Lutwak, per imporre una no-fly zone bisogna prima distruggere la contraerea, perché se uno non distrugge la contraerea e poi va a fare una no-fly zone, appena vola un aereo te lo abbattono. Quindi c'è anche questa ipocrisia. Poi abbiamo concluso il tempo, Marco, poi non si sentiva veramente bene. Quindi non è che buttare una bomba per distruggere una contraerea è un intervento che va oltre la no-fly zone. Per imporre una no-fly zone bisogna distruggere le armi che possono abbattere gli aerei. Così è. Intanto ringrazio il senatore Vita del Partito Democratico e l'onorevole Fiammanino Einstein del Popolo della Libertà per essere stati con noi. Ci fermiamo con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia, dando la linea a Oscar Giannino domattina noi alle 7:20.